Mix 24 di Giovanni Minoli. Il decreto salva banche arriva in Commissione Finanza del Senato, mentre alla Camera è in corso la discussione generale sulle mozioni che sollecitano chiarezza. Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, Associazione delle Banche Italiane, chiede a titolo personale di rendere pubblici almeno i nomi dei primi 100 grandi debitori colpevoli del fallimento dei loro istituti. Semaforo verde in questa direzione arriva dal garante della privacy. Antonello Soro infatti fa sapere che la maggior parte dei debitori colpevoli non gode più di alcuna tutela, almeno sotto il profilo privacy. Dipendenti della banca, ormai di stato quasi, si sono ritrovati sulla posta aziendale una bella lettera. Verrà punita la diffusione di ogni notizia che riguarda la banca, ogni sibilo, ogni racconto non autorizzato. Uscirà mai l'elenco dei fatidici debitori? Antonio Patuelli, presidente dell'ABI. Allora, uscirà mai l'elenco di questi fatidici debitori? Ieri il Parlamento ha approvato le mozioni, una in particolare, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta. E quindi c'è speranza, diciamo? Non c'è esplicitamente inserito come uno degli obiettivi su cui il Parlamento ha deciso, appunto, rendere noto le responsabilità di tutti che sono stati elencati, gli amministratori delle banche che sono ben noti e anche coloro che sono stati debitori insolventi. Ecco, quindi il Parlamento ieri l'ha approvata. Quindi la sua proposta è passata, diciamo, perché sostanzialmente è lei che ha gettato, diciamo, il sasso nello stagno con successo. Per dire la verità, io ho studiato solo la metodologia giuridica e ho espresso che non avevo obiezioni, ma da mesi consumatori, sindacati, esponenti politici, a cominciare dal presidente della regione Toscana, l'avevano chiesta. Vabbè, comunque lei ha fatto la cassa di risonanza potente. I nomi certi da fare quindi sono quelli di chi, per riassumere con chiarezza? La parola insolventi è giuridicamente chiara. È la parola quelli chiara. Che non hanno restituito. Quelli che non hanno restituito. Quindi c'è da fare una distinzione rispetto alla pubblicazione degli elenchi su questo tema? Ma sicuro. E lo farà la Commissione parlamentare d'inchiesta nella sua ampia responsabilità, ovvero sia distinguendo quelli che sono in regola, che sono a posto, sono in ritardo, che hanno dei problemi, ma non vanno certamente ampliati i problemi ma risolti, e quelli che invece non hanno restituito. Cioè, chi non ha mai iniziato a pagare, per capirci. Quelli che non hanno restituito. Ecco, va bene. Senta, il Parlamento dovrebbe fare una legge per consentire questa pubblicazione? No, il Parlamento ha deciso ieri di istituire la commissione d'inchiesta con un dibattito che inizierà a fine gennaio, primi di febbraio, e chiaramente le commissioni d'inchiesta vengono istituite per legge. Quindi si prende un po' di tempo, diciamo. Non lo so, questo non è questione che riguarda il Parlamento. D'accordo. Comunque, però l'idea è stata proceduralmente accolta. Ecco, ma diciamo più nel merito, questa legge ovviamente allora vale per tutte le banche, Banca Etruria, insomma le banche venete, vale per chiunque. La mozione indica in maniera non specifica. La legge istitutiva che dovrà essere approvata della commissione d'inchiesta chiaramente definirà e circoscriverà. La questione comunque non è più a livello di idea come l'avevo lanciato. No, certo, naturalmente, è una cosa molto più concreta. Ecco, qualcuno dice che bisogna però che obbligare solo le società, non i singoli, non gli individui. Questo è un consiglio che dà, è una vera opzione, che cos'è? Ma lo studieranno i giuristi. Studieranno i giuristi. Senta, lei ha detto che esiste il mendacio bancario, ma mi spiega cosa vuol dire? Ah, ma questo è un articolo del testo unico bancario. Sì, ma che cos'è, per me che sono ignorante? Un cliente della banca racconta falsità alla banca per ottenere, falsifica documenti per esempio, per ottenere un prestito, le leggi dello Stato, non da oggi, ma da decenni, ritengono che quello sia un reato. Ecco, Presidente Patuelli, ma le risulta che sia mai stato applicato? Guardi, i tribunali della Repubblica sono tanti, ma la legge esiste. No, ma per quello che ne sa lei che si occupa di banche. Ma l'esplosione dei problemi in Italia è stata di questi ultimissimi anni e le inchieste non sono alla fine, sono all'inizio. Ma le banche non dovrebbero controllare chi merita credito e chi no? Sicuro, con gli elementi che sono a disposizione, di cui quelli forniti dai clienti sono elementi fondamentali. Ma non unici però. Non unici, ma non è che ce ne siano molti, non è che ci sono dei soggetti indipendenti che possono sapere l'andamento delle singole aziende. Ma senta, rispetto alla responsabilità sulla vigilanza, che evidentemente non c'è stata, è necessario intervenire? Cioè, per essere semplici e chiari, dovremmo fare anche i nomi di chi non ha vigilato. Guardi, io non ho, come privato cittadino e presidente di un'associazione privata, alcun flusso di notizie relative. No, ma in termini generali, diciamo. In termini generali potrei dire anche in termini ammiragli, per intenderci. Il problema è che noi questi flussi non li abbiamo. Vabbè, ma chi doveva vigilare c'è. Quindi, ma non è che il vigilante può prevenire l'incidente stradale, per essere precisi. Accerterà le cause e le responsabilità dell'incidente. Ma una volta che c'è l'incidente ed è chiaro, forse... Ma a me risulta che ci siano degli esposti proprio della vigilanza che stanno... che vengono esaminati dalle autorità giudiziarie competenti. Senti, Presidente Patuelli, Unicredit ha superato bene gli stress test. Perché si chiedono 15 miliardi di ricapitalizzazione? L'MPS non l'aveva superato. Lo devi chiedere a loro. No, ma lei non da esperto... Sono interna corporis. Ma l'amministratore delegato di Unicredit, il francese Mustier, ha rifiutato l'offerta di Pioneer di Poste Italiane, ha accettato quella di Amundi. È un'operazione chiara e trasparente, secondo lei? Guardi, che io non conosco e non mi esprimo mai su cose, operazioni che riguardano singoli associati. Quindi non sa se si sta progettando una vendita ai francesi? Non è competenza nostra e non è consuetudine nostra parlare, perché noi oltretutto siamo tutte banche concorrenti. In associazione non parliamo mai di affari, ma parliamo solo di normative. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, tu sul tema della pubblicazione rapidamente dei grandi nomi dei grandi debitori hai avuto due posizioni diverse. Prima eri favorevole, poi ieri hai cambiato idea. Che cosa ti ha convinto a cambiare idea? Il fatto che se tu pubblichi l'elenco dei cosiddetti grandi debitori, in realtà non migliori la posizione, diciamo, per il recupero da parte della banca delle somme, anzi la peggiori, perché introduci un elemento di sfiducia e quindi incidi sul bilancio della banca. Di credibilità. C'è anche il tema dei buoni clienti della banca. Vabbè, quelli chi li tocca? Perché il buon cliente, come tu sai, nella vita delle imprese può capitare che un'impresa abbia un periodo negativo, poi si trova con la spada di Damocle della pubblicazione del suo nome tra quello dei debitori o degli insolventi. È un tema di fiducia, cioè siccome MPS ha avuto da settembre del 2016, in quei mesi, dall'inizio dell'anno a settembre, quasi 18 miliardi di fuga di raccolta commerciale, 18 miliardi di euro in meno, significa che tu corri il rischio di passare dal deposit run, cioè dalla fuga dei depositi, al credit run, cioè dalla fuga dei buoni clienti dalla banca. Ma questa non è una buona ragione per coprire chi... Non è questione di coprire. Vabbè. La riservatezza dei dati, il segreto bancario, è uno dei fondamenti dell'attività bancaria. Pietrangio, bisogna stare molto attenti. Per te Pietrangio sarebbe una gogna? Ritengo che sia preferibile l'ingiustizia al caos, e se la riservatezza può essere considerata un'ingiustizia deve essere a tutti i costi mantenuta. Ci penserà magari il giornalismo dopo a dare i nomi, ma l'istituto deve essere tenuto ormai a questa regola. È una regola che è fondata, è una regola che è stabilita nell'idea stessa. Senta, abbiamo qui con noi, lo ringrazio, Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ecco, della proposta Patuelli cosa dice? Ma intanto un atteggiamento di svolta da parte dell'ABI.

Cioè, sostanzialmente, commissione d'inchiesta, sostanzialmente si piglia tempo, insomma, un brodino. Siamo a fine legislatura ed è evidente che questa commissione d'inchiesta non vedrà la fine. Forse la luce, ma quella iniziale, poi, insomma. Cioè, quindi finisce. Però sarà, no, io penso questo, sarà una traccia per la prossima legislatura. Senta, c'è Bruna, che è una piccola azionista del Monte dei Paschi, che ci scrive: riuscite a spiegarmi che fine hanno fatto le azioni del Monte dei Paschi? Io sono una piccolissima azionista e non ci capisco più nulla. Grazie, Bruna. Cosa gli possiamo rispondere? No, che le azioni purtroppo sono lì con un valore zero. Ora non so quando Bruno ha comprato le sue azioni. Sì, valgono 0, qualcosa. E dipende dalla sua storia, dipende quanto ci ha investito. Vabbè, non ha fatto un grande affare, Bruno. No, diciamo, dipende da quando ha acquistato. Se ha acquistato il mese scorso, il valore è sempre quello. Se ha acquistato qualche anno fa, ha perso tutto. Senta, la quota finale delle sofferenze di MPS sarà definita a un certo punto con chiarezza oppure no? Penso di sì, i numeri. Ma quando? Diciamo l'ammontare complessivo delle sofferenze, quello diciamo già venuto fuori ora, quello venuto fuori gli stress test da BCE, questi 27 miliardi andavano tolti alla pancia della banca già molto tempo prima, non c'è mai stato un piano industriale credibile, altrimenti insomma, il mercato si diceva che ci fosse la fila per comprare l'MPS. In realtà abbiamo visto, l'abbiamo anche detto nella nostra scheda, abbiamo ripetuto, sono spariti tutti, come anche per le tre banchette che dovevano essere vendute perché c'era la fila, ma nessuno le vuole. C'è stato un approccio abbastanza approssimativo al tema banche ed è stato uno dei principali errori del governo Renzi. Ecco, ma per esempio, si parla di italianità adesso per varie cose, per Mediaset scalata da Vivendi, eccetera. Cioè, però Pioneer, cioè il risparmio gestito degli italiani, una grossa quota di risparmio gestito, è andata ai francesi. Niente difesa dell'italianità lì? E non c'è nemmeno dibattito in Parlamento. Io sono preoccupato da questo punto di vista, perché dietro Unicredit non c'è solo una banca. Ci sono interessi nazionali importanti, in alcuni casi anche interessi europei. E il capitalismo italiano si è trasformato, non è quello di 10 anni fa, è una cosa completamente diversa, molto più fragile, molto più frammentato. Ma scusi, ma Unicredit aveva fatto gli stress test in Europa, li aveva superati. Perché adesso chiedere un progetto di ricapitalizzazione da 15 miliardi, un aumento così grande? Mi pare evidente, il disegno è quello di portare definitivamente Unicredit in Francia, quello di assicurarsi il controllo di Generali, quello di aumentare la quota di controllo su Mediobanca. Stiamo perdendo un pezzo consistente del capitalismo italiano nel silenzio più assoluto. Cioè, sostanzialmente, dopo Pioneer, i francesi si prendono Unicredit. Dopo Mediaset, Unicredit, Generali, pezzo consistente di Mediobanca, poi se Fincantieri... Ma voi che siete la politica, che cosa fate? Io dico in generale. Io alzo la voce e mi arrabbio, dopodiché quello che abbiamo il dovere di fare, secondo me, è di chiedere un time out. A chi? Al funzionamento in questo momento dei mercati in questo modo, perché i mercati possono essere regolati. La politica ha questa funzione straordinariamente bella, ed è quella di regolarli i mercati. È straordinariamente assente anche, oltre certo, che bella. Ma quella, l'assenza dipende dalla capacità della classe politica, evidentemente è incapace. Quindi il capitalismo italiano è sparito e la classe politica è non stata è sparito, zitta. Cioè, questa è la sintesi. È sempre più frammentato, ovviamente stiamo parlando del capitalismo più tradizionale, la grande industria, i servizi finanziari, perché sul digitale come è noto, se teniamo ancora il tappeto rosso ai grandi evasori è difficile che i nostri crescano. Io penso che serva un grande time out, come si fa nel basket, che dura qualche secondo, non deve durare mesi, che diciamo possa trarre una linfa nuova da un dibattito molto serio che il Parlamento non ha ancora fatto. Io penso che sia necessario discutere seriamente su dove sta andando il capitalismo italiano. Pietrangelo, hai ricevuto un... Sì, un tweet di una nostra ascoltatrice, Elena Marra, dice: per la crisi della Banca Romana nel 1893 il governo Crispi cadde, qualcuno pagò, l'Italia che fu. Eh sì, no, no, il primo quella... grande scandalo. Ma quella era un'Italia che aveva, come quelle successive, delle regole non scritte che, diciamo, si applicavano sempre. Questa Italia non le ha più, queste. Parliamoci chiaro, il Parlamento sembra sordo, cieco e muto. Ma lei, si rende conto che ci si insegue per un tweet, ci si insegue per 20 secondi di video che finiscono sulla rete e abbiamo interi gruppi parlamentari che passano le giornate a fotografarsi l'un l'altro per mandare un tweet, per mandare una robetta su, vabbè, su YouTube. Ho capito, ma la statura anche della classe politica, la misura dal pensiero lungo che c'è. Assolutamente. E se il pensiero allora è corto, mettiamola così, il risultato è questo. Senta, lei da presidente, lei è un politico impegnato, ha un ruolo istituzionale, presidente della commissione bilancio, ha intenzione di prendere qualche iniziativa? Sì, sì, io penso che sia necessario in questo momento chiedere al Parlamento un'indagine conoscitiva sullo stato del capitalismo italiano. Siamo alla vigilia di una fase molto delicata in Europa. Probabilmente questa Europa non deciderà nulla nel 2017 perché ci sono le elezioni francesi, quelle tedesche, forse, come spera Renzi, quelle italiane, probabilmente no. Lei che dice, sì o no? Io penso che si voterà a scadenza naturale, ma non perché si deve prendere tempo, semplicemente perché non ci sono i tempi. La legislatura è finita. A dicembre 2017 comunque il presidente Mattarella deve sciogliere le Camere perché la legislatura è finita. Quindi votare a giugno o votare a febbraio non cambia molto. La differenza è che di qui a dicembre ci sono... Intanto c'è una manovra da fare ancora, c'è da mettere qualche toppa ad alcuni buchi lasciati, quello delle banche è uno di questi. 20 miliardi di debito in più da emettere. di fatto già deliberato dal Parlamento, quindi di fatto già emesso. No, però lei stava dicendo le intenzioni, abbiamo fatto la critica assoluta, totale, radicale alla classe politica, fatta da un politico autorevole. Lei però è presidente della commissione bilancio, stava dicendo le iniziative da prendere per ottenere questo time out in qualche modo, no? Ha senso dirsi fino in fondo dove sta andando il capitalismo italiano e quali regole noi abbiamo intenzione di inserire. Fincantieri in questo momento è un'azienda italiana importante, sta comprando un'impresa importante in Francia. Ma i francesi la difendono. No, il Parlamento è scoppiato il caos e abbiamo tutta la stampa contro. Allora, se l'Europa è questa, sì, dobbiamo anche dirci dove stiamo andando e se è il caso di difendere alcuni nostri campioni nazionali. Io comincio con Mustier. Ognuno fa il mestiere, sì, sì, che fa. Problema qual è il luogo fondo in cui si attiva questa discussione? È il Parlamento. Ecco, ma allora chi, dove, come, quando? A breve io proporrò, attraverso la mia commissione, l'attivazione di un'indagine conoscitiva sullo stato del capitalismo italiano, sul funzionamento del nostro sistema bancario, sulle relazioni tra le nostre banche e le nostre imprese. Quindi sul funzionamento della commissione bilancio della Camera. Assolutamente sì. Per questa cosa qua. Almeno lasciamo in eredità a chi verrà dopo di noi una fotografia sulla condizione in cui siamo. Poi io vorrei prendere anche qualche decisione, però le decisioni si prendono con le maggioranze parlamentari. Spero ci siano, oltre che per fare... Per prendere quali decisioni? La legge elettorale, e in questo momento sarebbe ma lei importante pensa che ci sono intervenire sulle norme connesse per esempio alla Golden Share, è importante intervenire su norme che in qualche modo garantiscano nuovi investimenti pubblici in alcuni settori strategici. Senta, ma si aspetta che la Corte Costituzionale risolva almeno la questione della legge elettorale oppure no? Guardi, io sarei intervenuto dal 5 febbraio, perché è chiaro che il 5 gli italiani ci hanno dato uno schiaffone alla risicata maggioranza parlamentare che ha voluto a tutti i costi quella riforma e quel tipo di battaglia referendaria. E non è stato così, si è deciso di aspettare la consulta. Lo dico perché, tornando a prima, se c'è una classe politica seria, uno si assume la responsabilità e dice: ho sbagliato, ora allargo la maggioranza e faccio una legge elettorale. Invece stiamo aspettando la Corte Costituzionale, come se la Corte... Gli abbiamo dato anche questo compito. Di solito si dà questo compito alla Corte quando non si ha... Quando il Parlamento non è in grado, diciamo, di risolvere niente. Quando non c'è il coraggio di affrontare i temi. Ora, la Corte, secondo me, non farà una sentenza autoapplicativa. Il Parlamento dovrà assumersi la responsabilità di fare una legge elettorale adeguata alla condizione in cui siamo, e spero... Ma il Presidente della Repubblica è stato chiarissimo: si vota se c'è una nuova legge che equipari Camera e Senato. Ha detto di più: una legge, diciamo, che non sia proporzionale in una Camera e maggioritaria. Esatto, deve essere la stessa cosa. Diciamo. E quindi dobbiamo farla noi. Allora, Pietrangelo, c'è da chiedere a Boccia? Sì, una domanda che apparentemente esula. Appoggerai la battaglia di Michele Emiliano per la segreteria del PD? Se decidesse di candidarsi, sì. Questa è una notizia. Se decidesse di candidarsi, certo. Però dovete chiedere a lui se... viene la prossima, giorno. Tu, Mario? No, l'onorevole Boccia ha pronunciato una parola che mi è rimasta sospesa: golden share. Cioè, quindi significa che sta pensando, ha in testa una riforma sulle azioni privilegiate, sostanzialmente, che hanno diritti particolari. Come? Ha già un'idea, insomma, perché è un aspetto importante. Sarebbe giusto parlarne in Parlamento prima, e poi mi riprometto di tornare qui e di affrontare il tema anche però con voi. Rafforzativa, perché l'assetto attuale, le regole attuali non sono più adeguate rispetto alle condizioni di funzionamento dell'attuale sistema. Quindi una sorta di avanzamento del protezionismo societario, chiamiamolo così. In questo momento storico penso che sia necessario. Un po' trampista questa. È legittima difesa. Legittima in questa difesa. Fase non sta funzionando io sono, cioè, come è noto, è andata troppo veloce. La globalizzazione, che ci dà alcune opportunità straordinarie, ci dà, diciamo, provoca degli effetti distorsivi che vanno regolati in maniera moderna, nuova. Però vince chi mette i soldi, sempre. Enrico Graziosi, non è escluso che debba metterli lo Stato in alcuni casi. Lo stiamo vedendo. Enrico Graziosi chiedete cortesemente a Boccia se per i risparmiatori truffati di Etruria il nuovo governo manterrà la discriminazione rispetto al trattamento risparmiatori del Monte dei Paschi. È una bella domanda. Acquistato le stesse tipologie di obbligazioni. Grazie. Io penso che debbano essere equiparati. Uno dei temi molto seri che dovranno affrontare i miei colleghi al Senato. Non è possibile avere famiglie diverse. Le storie di crisi di queste banche sono simili, nel senso che quei prodotti non dovevano arrivare ad operatori non qualificati e sono arrivati a gente che non doveva. La domanda di Enrico Graziosi è molto pertinente. Sì, assolutamente sì. Giovanni, posso chiedere un'altra cosa? Tema. Sì. E, onorevole, lei non pensa che proprio il provvedimento di rimborso dei subordinati faccia una discriminazione ulteriore? Cioè, quando dice che gli istituzionali dovranno essere rimborsati al 75% del valore nominale, dimentica una cosa: che gli istituzionali, i fondi, comprano alla fine per i piccoli o grandi risparmiatori che siano, ma per i risparmiatori, non per se stessi. Alla fine, dietro il fondo istituzionale c'è sempre un risparmiatore, per cui non si capisce perché a uno, al retail 100% e all'istituzionale 75%. Alla fine, se fanno un ricorso, questa è la mia opinione, probabilmente vincono. La sua qual è in questo caso? No, la sua valutazione ha un fondamento tecnico molto serio e penso che sia stato fatto con un altro tipo di riflessione, cioè loro hanno la possibilità, avendo dei conti economici, di avere margini da qualche altra parte. I privati si hanno perso tutto, soprattutto se avevano solo quello. Però il tema c'è tutto. Ecco, insomma, per portare avanti le sue idee, Stefano da Palermo le chiede: allora Boccia si candida Premier? No, io mi candido ad essere classe dirigente di un partito che non ascolta più nessuno. Vorrei essere semplicemente un po' più ascoltato Però ci ha messo un po' di tempo prima di dire no. Interessante, va bene. No, me ne è innescato un'altra. Abbiamo appreso, noi giornalisti e anche voi, del cambi della segreteria del PD dai giornali. Cioè, questa la interpreta? Cioè, ieri sull'unità. È l'epilogo di una stagione. Io mi auguro che Renzi capisca che il congresso fa bene a tutti, soprattutto al PD e poi anche a lui, perché se dovesse rivincere il congresso sarà non solo più forte, ma più consapevole che si guida tutti insieme. Chiederà a Emiliano di candidarsi? Io l'ho già chiesto a Emiliano di candidarsi, lui lo sa. Come glielo stanno chiedendo in tanti, ovviamente non è una decisione facile perché fa il presidente della regione da così poco tempo. Io penso che lui sia una delle personalità in grado di unire la sinistra italiana. Va bene. Con questa proposta e questa notizia di Emiliano. Non è candidato, vabbè, capisco, fate gli ha dato il vostro un paio perché, insomma, secondo me Boccia non si è reso conto, ma ha chiesto la riforma della Golden Share di poi un'indagine sul capitalismo italiano e infine Emiliano deve candidarsi alla segreteria. Ha dettato la prossima agenda. Quando si entra qui dentro si è sempre consapevole. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, arriva la canzone. Baby, I fell in love. Metropolitana agitata, no, era per strada, era per strada, che c'era una gran folla oggi, tutti i passanti che si portavano dietro i loro sogni, invece di lasciarli sul cuscino ce li avevano addosso come compagnia accanto, e anche gli automobilisti fermi ai semafori venivano, si sentivano bussare al finestrino ed erano i sogni che volevano stare con loro per tutta la giornata. Insomma, ha chiamato Cyrano de Bergerac, ha voluto questo brano da dedicare a Luna con un messaggio. Noi siamo fatti di Luna, Luna. C'è qualcosa di non detto in questa dedica, secondo me. Questa musica nuova, particolare, ha una storia che non sappiamo. Vabbè, il 2017 è cominciato nel segno di un'altra. Va bene, vai con la tua bolla. Figura, vai. When the law is ready, you got to move. You got to move. Stamattina li ho lasciati fare in regia. Hanno messo The Blind Boys of Alabama. You got the move. E dove ci porta? Alle nuove frontiere del giornalismo. Vorrei segnalare che 35 pagine di report compilato da un ex spia inglese con notizie totalmente non verificate e non verificabili, come avvisato da chi invece le ha pubblicate, tra i quali New York Times, BuzzFeed, insomma tutti quanti, sono finite sui giornali, dove si dice che Donald Trump è stato per 5 anni praticamente, insomma, coltivato dal KGB, che all'hotel Ritz-Carlton si divertiva con delle signorine, roba, storie come sempre di sesso, eccetera. È peccato però che tutto questo sia appunto totalmente inverificabile. Mi chiedo, Giovanni, state pubblicate come non verificate? Come non verificate, la cosa incredibile. Cioè, pubblicate come non verificate. La concorrenza sulle fake news della rete fatta dai giornali. Siamo al delirio. Allora, si avvisa che queste notizie non sono verificate. Vediamo, ma non sono verificate. Non sono verificabili, ma le pubblichiamo. Pensateci voi. Ora, totalmente tutto contro qualsiasi regola che a me hanno insegnato così. Forse siamo alla fine di un modo di fare. Io volevo avere un'opinione da te e da Pietrangelo. Io non l'ho mai fatta una cosa del genere, abbiate pazienza. Ma a parte tu che sei praticamente perfetto. No, però... perfetto no, però accidenti. No, però effettivamente tanto, eh. dire pubblico le notizie non verificate. Cioè, no, ma con l'avviso. Cioè, ti dico che non è vero. Vorrei ricordare che anche il giornalismo dei professionisti è una vita che campa con notizie non verificate. No, e questo è il punto. Certo. Che sono professionisti quelli che hanno pubblicato questa cosa. Vabbè. È incredibile. Salamino! Ci fosse stato Marco Carrai, caro Giovanni, ci fosse stato Marco Carrai, l'amico del muretto di Matteo Renzi, ci fosse stato lui a capo della cybersicurezza, tutto questo oggi non sarebbe finito sulle pagine dei giornali e invece siamo finiti tutti sotto l'occhio dei bros, i bros che sarebbero i fratelli, cioè i fratelli Giovanni. I fratelli. Guarda che bel nome, i fratelli Occhio Nero. Occhio Nero è stupendo. Oh, Giulia e Francesca Occhio Nero, che sono fratello e sorella a capo di una Spectre capace di spiare. Monsignor Ravasi. Poi anche due politici in disarmo, tipo Mario Monti e Matteo Renzi. Quindi Mario Draghi e poi Michela Vittoria Brambilla, e non solo loro. Spiavano la Brambilla. Sì, spiavano la Brambilla. E a che scopo? E perché vogliono sapere sul pedigree degli animali, sui cavalli, sulle paperelle, le occhette, insomma. Oh, questi qua. Far ridere. No, tu ridi, ma non sono due hacker per ridere questi due. No, hanno legami con la P4. Pure. Sì, con la P4. E Giulio Occhio Nero risulta, caro Giovanni, fratello, oltre che della bella Francesca, anche di Arturo Toscanini. E quindi? Sì, di re, di principi e scienziati. Ascoltate. Giovanni, la massoneria è contro la religione. Senti qui che c'è scritto. Re, principi, uomini di Stato, guerrieri, filosofi, sapienti hanno figurato e figurano nelle liste delle logge a fianco di commercianti, industriali, borghesi e semplici lavoratori. Persino Toscanini era massone. Ah, buono quello, Toscanini, che non ha mai saputo dirigere. A Toscanini non sapeva dirigere. Sì, dirigeva tutto di fretta e nessuno ci aveva il coraggio di dirglielo, solo perché era un massone. È proprio per questo, hai capito? L'importanza di essere massone. Occhio Nero risulta massone. Però secondo me Occhio Nero, Giovanni, è parente di Occhio Fino, che ve lo ricordate, è un personaggio chiave del Sorpasso, il film di Dino Risi. Occhio Fino, del quale, invertendo l'ordine dei fattori, risulta un'altra cosa che non si può dire. Non si può dire. Ora, qual è la morale? Che noi non siamo qui a inseguire la realtà a colpi di commedia, ma è la commedia a vivere nella realtà. Ci è voluta la collaborazione dell'FBI per arrivare a Occhio Nero, e lui dice di sé: sono il Licio Gelli del futuro, mentre invece lei, la sorella, bella e piacevolissima, come dice un suo amico che risulta sbalordita alla notizia, un suo amico che parla al Corriere e che si chiama... Ragazze, sentite, si chiama Marco Ricco Bono, dunque uno Bono e ricco, proprio perché è il cognome che fa l'indizio, mentre la commedia istruisce l'inchiesta. Occhio Nero è ovviamente più avanti di Occhio Fino ed è nel solco dei ragionieri celebratissimi, meravigliosi. Fini. No, i ragionieri, collabora e guarda la vecchia, e perciò, caro Giovanni, io affido a Totò il commento. Io non mi fermo né al primo, né al secondo, né al terzo ostacolo. Io vado avanti perché chi si ferma è perduto. Collabora, te lo dice un guarda la vecchia. Antonio, collabora e guarda la vecchia, Occhio Fino e Occhio Nero. In questa incredibile commedia hanno fatto secco il direttore del servizio di polizia postale, adesso. Sì, l'hanno licenziato, l'hanno avvicendato. Certo, perché probabilmente lui capiva che era una stupidaggine, e quelli invece hanno preso allora, perché non ha avvisato. Ah, non ha avvisato. Quindi c'è in corso una crisi, diciamo, di sistema dentro la crisi polizia. Di sceneggiatura. Gli sceneggiatori litigavano fra di loro su quel passaggio. Bolla, Mario. È una storia incredibile. No difference to me. Giovanni, ci sono un paio di notizie. Ce n'è una importante che mi pare non abbiamo dato stamattina sul nostro premier. No, vabbè, ma l'ha dato al giornale radio, che comunque sta bene. Va bene, sì, sì. Gli facciamo anche gli auguri. Naturalmente. E l'altra, invece, stanno rivendicando gli ultimi attentati in Turchia, ho visto. Noi in questi giorni ne abbiamo parlato poco, perché travolti ovviamente dalle news, dall'agenda, eccetera. In questo caso PKK è da segnalare che Erdogan è in grande difficoltà dopo l'ultimo attentato, e sta procedendo, ha iniziato una riforma costituzionale per prendere tutto il potere, ed è uno ma dei punti sono toste. Ed è uno dei punti che noi dovremmo tenere d'occhio, certo, nei prossimi giorni. Canzoniere, che è quello di ieri. Non c'è, fa freddo fuori. Ma mamma, sì, cari, sì, fa freddo, capito che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnati, capito? Fa freddo, fa freddo, fa freddo. Ah. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone: i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia. È stato anche un poeta, Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, scomparso l'11 gennaio del 99, 18 anni fa, a soli 59 anni. Nato a Genova nel 40, con Luigi Tenco e Gino Paoli, fonda negli anni 60 la Scuola Genovese, movimento culturale legato al canto d'autore. E con la canzone di Marinella nel 1965 arriva il suo primo vero successo. A interpretarla è Mina. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Nel 67 il suo primo album, volume 1, con Via del Campo e Bocca di Rosa. Il 68 è l'anno di Tutti morimmo a stento, e poi, uno dietro l'altro, titoli come La buona novella, Non al denaro, non all'amore né al cielo, Storia di un impiegato, Rimini, fino agli ultimi due album, Le nuvole e Anime salve. La denuncia delle ingiustizie, dell'ipocrisia del potere, della violenza della guerra, le storie degli emarginati e delle minoranze e la morte, cantata spesso nelle sue canzoni, restano il centro della sua poetica. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Dopo il giornale radio, da non perdere questa puntata su Fabrizio De André. Intanto Daniela da Prato per il canzoniere. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Allora? Natale in casa Cupiello. Perfetto, hanno indovinato tantissimi che ci hanno anche scritto. Grazie signora, grazie. E intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. CHEST, agosto 2016. Revisione degli errori più frequenti in coloro che usano gli inalatori. Le malattie respiratorie sono in aumento, la bronchite cronica, l'asma, mentre invece, come sapete, le malattie cardiovascolari sono in diminuzione. Ma questo fatto che le malattie respiratorie sono in aumento giustifica sempre un maggior utilizzo di farmaci broncodilatatori, ce ne sono sempre di più moderni, che in genere vengono veicolati attraverso dei piccoli device chiamati inalatori. Sono degli apparecchietti che facilitano l'assunzione del broncodilatatore. Bisogna istruire i pazienti in modo tale che non si sbaglino e quindi inseriscano nel corpo la giusta quantità di medicina, perché utilizzano correttamente l'inalatore. Gli inalatori sono di due tipi in linea di massima: quelli che spruzzano ogni volta una quantità prefissata e quelli che invece spruzzano una polvere. I primi, quelli della quantità prefissata, presentano le seguenti caratteristiche di errore: mancata coordinazione tra spruzzo e inalazione, mancata costanza nell'ispirazione che favorisce l'assunzione del farmaco, mancato mantenimento del fermo respiro per 5-10 secondi dopo l'inalazione. Bisogna inalare e rimanere fermi con il respiro per far sì che il farmaco penetri. Gli inalatori che invece mandano polvere hanno questo tipo di sbagli. Ci si sbaglia nel preparare l'apparecchio, che è un pochino complicato. Ci si sbaglia perché c'è una mancata espirazione dopo l'inspirazione. Ci si sbaglia perché c'è un mancato fermo respiro dopo l'inalazione. Questi sono gli errori degli inalatori che spingono polvere nel nostro organismo, che comunque sono un pochino meglio dei primi, cioè quelli che ogni volta inalano, fanno inalare una quantità prefissata, perché sono un pochino più semplici. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ci ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi vede ormai solo la schiena di chi ha preso una nuova direzione. Giorgio Poi, Niente di strano. Hai detto prendo tutto e vado via, con quello che puzza di naftalina. Ma non è vero che non era importante, non è vero che doveva andare così. Due occhi come il cemento, servono a dire che è soltanto colpa mia. Dichiarare che di me non te ne frega niente. Ti sei fermata un attimo per vedere cosa c'era nel frigo. È molto lunga la strada che da Milano porta in paradiso, ma resta un altro po'. Fuori come piove ti si fermano a metà. Niente di strano, niente di strano, niente di strano, niente di strano.